porta fani, aso chi sosta di ritani, prima di un riso che tu ci offri, e chi si mani di domani, passimo viva stamulani, e chi aso che tu ne so chi. Ma fede chi uccelli Thank you.